Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera seconda parte dell'intervista a Corrado Clini, ministro dell'Ambiente. Ieri sera il ministro ha annunciato proprio ai nostri microfoni la determinazione a prorogare le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e ad arrivare a una rapida approvazione dei decreti attuativi da tempo attesi che hanno il compito di ridisegnare il sistema delle regole e degli incentivi per le rinnovabili, fotovoltaico escluso. Ma soprattutto il ministro ha indicato un criterio forte che sarà alla base di tutto questo riordino. Saranno cioè favorite le tecnologie più innovative che hanno solide basi industriali in Italia. Quali? Sentite. Qui abbiamo una tradizione importante nell'elettromeccanica. Qui abbiamo delle esperienze significative in Italia oggi, di punta a livello mondiale. Abbiamo innovazione importante sempre nel settore delle rinnovabili, voglio ricordarle la industrializzazione del progetto Archimede, certo, e delle componenti del progetto Archimede, che di nuovo sono solare termico a concentrazione per gli ascoltatori, sì. Concentrazione, eccetera. Abbiamo un'esperienza interessantissima nelle pompe di calore e nel geotermico a bassa entalpia, ma anche esperienze innovative ora nel pompe di calore ad alta temperatura, che sono molto interessanti. Posso citare ancora nelle microturbine ad alta efficienza per la trigenerazione, certo, di elettricità, caldo e freddo. Il mercato italiano è già di per sé un mercato ricettivo, perché come lei ben sa dobbiamo rapidamente cambiare l'impianto del sistema energetico italiano. Per ridurre anche la dipendenza, che è quasi al 90%. Non solo per ridurre la dipendenza, ma soprattutto per uscire da quello che è ancora oggi un monopolio, perché di fatto il sistema elettrico italiano è ancora un sistema monopolista, anche se ci sono più aziende, ma nella sostanza è monopolista perché è incardinato su grandi impianti di produzione e sulla rete di distribuzione elettrica legata ai grandi impianti di produzione. Certo. Mentre invece quello che dobbiamo fare, che è anche una linea di modernizzazione del paese, di puntare alla generazione distribuita, che valorizza sia le fonti rinnovabili che i sistemi di efficienza energetica, e nello stesso tempo sulle reti intelligenti, per esempio in ambito urbano, in ambito di distretti industriali, che consentono di utilizzare al meglio l'elettricità prodotta senza dispersione e senza inefficienza. E questo l'Italia lo può fare, ma facendo questo e mettendo assieme le competenze e le risorse industriali che l'Italia ha in questo settore, noi possiamo avere una carta importante da giocare nei mercati internazionali, dove il problema della efficienza dei sistemi energetici e dello sviluppo della generazione distribuita è vitale. Di nuovo la Cina, ma l'India, il Brasile, il Sudafrica, il Messico, questi sono, sì, paesi. È un nodo che sta venendo fuori, è ineludibile sostanzialmente. Tra l'altro in questi giorni a livello europeo le associazioni industriali si stanno lamentando dell'obiettivo del 20% di efficienza energetica. Anche qui in Italia, ma un po' in generale in Europa, c'è stata una grande spinta sul versante delle rinnovabili. Secondo me, qui a Mr. Kilowatt l'abbiamo denunciato spesso con forti squilibri, per esempio a favore del fotovoltaico, ma mi pare che lei su questo sia d'accordo. Però l'idea di ridurre i consumi non piace. Quale sarà la posizione del governo su questo tema? Concordate su questo obiettivo, diciamo, di efficienza del 20% europeo? Guardi, non solo, certamente non abbiamo parlato a livello di governo, ma come ministro dell'ambiente le posso dire che questo è un obiettivo già consolidato. Non solo, l'esigenza di avere un target per l'efficienza energetica, come sostanzialmente sta emergendo dal Parlamento europeo, è un'esigenza assolutamente condivisa, perché questo crea il framework europeo di riferimento per tutte le imprese. Bisogna assolutamente sostenere questo obiettivo, anche perché questa è una delle chiavi di volta dell'innovazione tecnologica. Ecco, ma lei cosa pensa di questa anche leggenda, mi scusi uso questo termine, di questa Prego. Leggenda che circola per cui se si riducono i consumi energetici siamo per forza tutti più poveri? Se una famiglia risparmia 300 euro al mese di energia non sarà mica più povera. Eppure c'è questa idea che circola, che siccome Senta la crescita... Sì. Lei, si, Lei si ricorda quanto consumavano le auto 20 anni fa per fare 100 chilometri? Certo. E quanto consumano 20 litri ora? Adesso e è allora, 5. Siamo diventati più poveri perché le auto consumano meno. È una cosa assolutamente ridicola. E però chi vende energia, e contano molto anche le aziende che vendono energia, non sono tanto contento. Chi vende energia non è tanto contento, questo mi rendo perfettamente conto. Ma il paragone lo possiamo fare col settore delle raffinerie. Lei sa benissimo che oggi il sistema della raffinazione in Italia ha una crisi. Ed ha una crisi perché la domanda di olio è calata, per fortuna. Ed è calata perché è aumentata l'efficienza nei sistemi di uso della benzina e del diesel, le auto nuove, le auto che rispettano gli standard e i regolamenti europei, ed è calata perché in generale la struttura della domanda di energia è diversa. Allora cosa dobbiamo fare? Tenere aperte le raffinerie per produrre, raffinare olio che non serve? È il sistema industriale che cambia, se no avremmo dovuto tenere aperti le officine artigiane che costruivano le carrozze. Sì, quelle che ferravano i cavalli, diciamo, dovrebbero essere numerosi. Bisogna capire che cosa sta succedendo e avere, come dire, la consapevolezza che siamo entrati già da tempo a livello globale in un ciclo nuovo, che la sopravvivenza, il futuro della nostra economia non sta rimanendo incardinati al passato, ma invece giocandosi le partite sulle sfide nuove. Le faccio un'ultimissima domanda, ed è questa. Lei, tra l'altro, insomma, come direttore del Ministero dell'Ambiente, conosce molto bene anche tutto quello che è successo negli ultimi 2-3 anni. Questo iter così lungo dei decreti attuativi, ma soprattutto io penso al 55% ogni anno rinnovato all'ultimo secondo. Posso chiederglielo adesso, che forse può rispondere anche un po' più liberamente, chi è che la tirava per le lunghe o non voleva farlo? Guardi, e perché? Guardi, ci sono, come dicono i burocrati, c'è il combinato disposto di due fattori principali. Il primo, la struttura del nostro ordinamento normativo, che continua ad essere assolutamente pesante senza portare vantaggi. La seconda considerazione riguarda invece il fatto che continua nel nostro paese l'abitudine a considerare che una decisione presa può essere in qualche modo rivista secondo un calendario amministrativo. Questo è pericolosissimo. La decisione del 55% mi pare che dovrebbe essere una decisione strutturale, non una decisione congiunturale. Grazie, Ministro Clini. A voi, buon lavoro. È tutto, a lunedì.